Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da settembre a dicembre del 1815. Murat cerca di recuperare il trono, ma lo arrestano, fucilato a Pizzo Calabro. I regnanti cristiani, uniti da un patto di collaborazione, nasce la Santa Alleanza. Decisa, la destinazione di Bonaparte sarà esiliato nella sperduta isola di Sant'Elena. Cielo ancora oscurato dall'eruzione di un vulcano nelle Indie orientali, danni gravissimi ai raccolti. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione, le cronache dal sud. Il disperato tentativo di Gioachino Murat di recuperare il trono di Napoli è fallito. Per il figlio dell'albergatore di La Bastide-Fortunière, il generale più coraggioso di Napoleone, l'avventura di paladino dell'Italia Unita è finita davanti a un plotone di esecuzione. Gioachino Murat, ex re di Napoli, è stato giustiziato a Pizzo Calabro il 13 ottobre in virtù, ironia della sorte, di una legge voluta da lui stesso. La vicenda dei suoi ultimi mesi è presto riassunta. Nel 1814, dopo aver stretto un patto con l'Austria, Murat conserva il regno ma resta isolato. Cosciente che a Vienna si punta al ritorno dei Borboni, durante i 100 giorni torna al fianco dell'imperatore. Combatte con coraggio la guerra austro-napoletana ma viene sconfitto il 2 maggio di quest'anno nella battaglia di Tolentino e in virtù del trattato di Casalanza del 20 maggio perde il potere definitivamente. Dopo Waterloo fugge in Corsica, da qui riparte per sollevare la popolazione di Napoli. Una tempesta tuttavia lo costringe a sbarcare in Calabria. È arrestato, condannato da un tribunale militare e fucilato. Il suo coraggio proverbiale non è mancato di fronte alla morte. Pare che le sue ultime parole siano state: risparmiate il volto, mirate al cuore, fuoco. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Nato in Corsica, poi esiliato all'Elba, ma c'è ancora un'isola nel destino di Bonaparte. Si tratta di un fazzoletto di terra nel mezzo dell'Atlantico, chiamato Sant'Elena. Napoleone vivrà nel villaggio di Longwood. Visti i precedenti, il governatore dell'isola, Sir Hudson Lowe, ha ricevuto l'ordine di vigilare strettissimamente. Su impulso dello zar Alessandro I, la stessa Russia, l'Austria, la Prussia e la Francia hanno stipulato un patto chiamato la Santa Alleanza per impegnarsi al mutuo soccorso. Un patto tra sovrani cristiani che si basa sul principio di intervento. A fronte di problemi interni come rivolte o rivoluzioni, gli stati aderenti possono appunto intervenire ad aiutare gli alleati. In chiusura le preoccupazioni di scienziati, agronomi, proprietari terrieri e contadini. L'anno appena trascorso è stato durissimo per i raccolti. Sembra che i problemi derivino dall'eruzione del vulcano Tambora nelle Indie orientali, che si stima 100 volte più potente di quella che distrusse Ercolano e Pompei 19 secoli fa. L'enorme massa di cenere scagliata in cielo ha raffreddato le temperature in tutto il pianeta. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog e la nostra pagina Facebook, lasciateci commenti o fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.